Venere di nuovo a Mara, c'è la Villa Luce. No, Venere, io non ho mai cambiato. È sempre così, non ho mai avuto problemi. Quello che consumo è giusto perché io ho il contascatti e quindi me ne accorgo perché ho la 380 e la 220. Quindi non c'è mai stato un problema, mai. Sono una vita. Non ho mai cambiato, non me l'ha fatto nulla e giamba con nessuno perché sono tutte truffe. Vai già. A me anche da poco mi ha chiamato questo, io sono con l'energia lo stesso. Mi ha chiamato da poco, l'energia, ascolti, stiamo facendo un nuovo programma con sconti, eccetera, guarda, non mi interessa. Ma chi siete, l'energia? E lei ha detto, sì, siamo l'energia, no. Poi alla fine ha detto, no, siamo, ha detto un'altra ditta. Ascolti, appena abbiamo avuto la nostra base, vai, ciao, buh, e ci sono due telefoni. Non chiama energia, non chiama, manda degli sms, ok? L'sms ti chiede non so che cosa, un codice d'accesso e vuole il nome dell'utente, capito? No, siamo parlando di persone serie, no? Chi si sono truffaldini, perché è vero, un tuo contratto con energia e si spacciano per energia, capito? Ma energia non chiama nessuno, assolutamente. Io sono più di 10 anni e mi ha sempre contattato via sms, sempre, ok? E poi sull'sms mi dice la contatteremo noi col numero, e mi dà anche il numero 02 eccetera eccetera, capito? E quindi io rispondo, se no non rispondo a nessuno, sono tutti call center, dici, tutti truffatori. Il 1 gennaio venivano multati questi che fanno queste cose qua, intanto stanno continuando. Mi Antonio, adesso ti faccio entrare, sì, perché la conf, come si chiama, Tony, quella, la conf, boh, adesso non mi ricordo, comunque quella lì dice che avevano fatto la legge per tutelarci e invece continua a rompere le palle. Avanti Antonio, vai per Tony. A tutti, no, io ci scappo a cagare subito, non sto lì a perderci tempo, no? Anche l'ultima borsa, questi truffaldini mi hanno mandato, cioè, volevano che io pagassi 300 euro, sono dall'avvocato, ma ha detto che mamma mi ha detto all'avvocato, ciò che l'ha detto io, non doveva piangarmi il culo, l'ha detto, era dell'avvocato, che non gli pagavo proprio niente. Così gli ho detto all'operatrice. Ciao Antonio. Avanti Tony, buonasera. Chi ti sono macchiso? E poi ti dirò cosa mi è successo Claudio stasera. Allora, è appoggiato a letto, ormai sono incolpato il lavoro, eccetera, mi chiama questa qua che fa cliente e mi fa, me ne fa un favore, mica. Se mi sposta la specchiera da una parte all'altra, cioè, va bene, glielo faccio stasera perché io domani sono impegnato tutto il giorno. Sì. Allora, così ne ha quella caccia. No, me ne compro lì, va bene, salto da casa mia dove abito io e da Bricome. Ha giocato una fila per una caccia giù la fritta. Va bene, prendo, salgo su Carboazzi, rifaccio il lavoro, cosa le devo dare? Mi dia mentire perché la conosco. Se non è troppo caro. Caccia zitta, scusi. Devi capire che io dove abito, se ce lo so, se lo sa, sono a Africa, ho comprato i tassilli, non il prezzo dei tassilli che non me l'ho fottuta, ma il gasolio consumo. Scusi. Sì, perché ce lo farò molto lavoro, quello che ho trovato in fretta, guarda, adesso ho impegnato, quando è mi chiama, e lo faccio sapere. Non vado più, a me gente che sono così taccagni e poco, capito, a me ce la metto. Anche se ho fatto due mucchi col trapano, a me mi hanno insommato da casa mia, a me quando mi chiama, non mi paga, non mi dicono manco va, inizia se me, non è troppo, e se vuoi si cuero, ma non tentate. Io mi tiro troppo, guarda io, mi spiegaci dei cartigini. Mentiro non me l'ho messo in casa. Sai, quando ho chiamato l'idraulico io per cambiarmi lo scaldabagno, perché avevo un mal di schiena, non ce la facevo, e mi ha attaccato lo scaldabagno, mi ha messo due flessibili nuovi perché erano leggermente più lunghi, tutto collegato e tutto, mi ha domandato 80 euro, cazzo, e e tu 20 euro. No, perché la sorella di mio cugino, capito? E ma vanno quando più se la pigliare in quel paese. E che cavolo, io stamattina ho portato un autoclave, ma la domanda, la verità, l'ho portato a aggiustare, se ci può aggiustare solo a comprare un nuovo adetto. E ripeto, non mi ha detto manco ma, a lei dipende 150-200 euro, penso. Ma sono clienti che io poi devo guardare, sono i muratori, non ho appartamento, devo dire dove vanno le prese, il centralino, tutto quanto, il segno, e poi devo fare l'impianto elettrico. Però, grazie a Dio, sono persone che mi hanno sempre pagato bene. Questo perché la suocera del mio cugino, hai capito, non è troppo, vai ci per la mezzo, vai. No, ma questa gente deve veramente. Questa gente è veramente allucinante, lasciamo perdere, veramente allucinante. Su questo hanno chiamato quest'estate, vediamo la caldaia, tutto, ha messo la candeletta nuova, ha dato una pulita, 80 euro, la candeletta costa 20 euro, 30 euro, 80 euro mi ha pigliato. Cioè non si può lavorare per 20 euro. Perché hai fatto 10 km, ma 20 euro. Di più che altri 10 km, penso, mi abito io a andare dal piccolo da Tecromat. Da Tecromat passa a Carbonazzi, cioè, dimmi tu. E poi devo tornare a casa. Me ne stavo caricato, forse guadagniamo anche di più. Mi dice la mezza. Ma l'ho preso un poco perché, ripeto, mi ha chiamato altre volte perché la suocera di mio cugino, capito? E mi prende un poco, sono pensionata. E se mi viene a casa la mazza di infaria, la trovo pensionata. C'è un poco di roba e compro un bene di là. Ma vorrei che vado a guardare il luccio che c'ha. Però che tu fai la taccagna, ma che ti chiedo 20 euro che ho preso stracettissimo. Il tassino ha pagato la cazzata, ma l'hai in casione con questo matto, ha fatto una fila, che te che tasso? E mi dici che non è troppo. Lascia perdere, gente vergognosa. Avanti, motopompa. Qua sogno. Buonasera. Ciao Tonini. Beh, come va? Da posto, sì. Io sempre a posto, che devo dire uni. Attore, a me fai duce con quello violato. Ci mancherebbe. Oh via, yeah. Siamo a posto. Mi prendi in obbliga. Oh, secondo mi assento, vai già che devo controllare la caldaia. Ehi, dai, io vi saluto che sono andato a buttare giù il cane, dai. Torino è ancora troppo tardi, quindi c'è stato poco, dai. Andare, ci sentiamo ragazzi, buona continuazione, io vado a buttare giù il cane, so che mi sta chiamando. Gappa, buon pomeriggio, saluta mia Tai. D'accordo, non c'è problema. Ehi, vedi, c'è qua, pensate, ciao Gianni, buonasera. Mi sono troppo tardi perché ripeto, stavo facendo un tabacco, che era meglio per stare a casa, va bene. Avanti qua. Non so. Ehi, avanti. Ehi, cazzo con 20 euro non ci cambi, non ci fai nulla oggigiorno, me. Cioè gli ha chiesto una miseria, gli ha chiesto. Guarda, non sai cosa conviene fare con questa niente, guarda, io per meno di 50 non ci vengo. Poi vediamo. Ah, non ti piace? Ciao, fatelo già a mano. Bisogna comportarsi così con certe persone. Ciao Antonio, ciao, ci sentiamo. Ciao già. Beh, anch'io, giustamente, altri clienti che ho, a tu. A quello che l'ho fatto il lavoro, 1350 euro, quello che ho fatto fare al volo, 4 giorni ho finito. Adesso mi sto facendo fare i piatti a casa sua. C'è persone che quando gli chiede un prezzo te lo fa fare, capito? Ma queste persone cominciano a dire, sono pensionata, piglia poco, vedo che tanto, vedo a casa sua, no, tu non fai un settimo che mi dà pensione. C'è anche due figli in casa che stanno lavorando e poi fare di là. Cioè, ti chiedo una cazzata e poi dice che è anche troppo. Lì ha giocato la Grozzi, è finito. Allora che cominciamo dopo domani, e dico no, ma io c'ho lavoro fisso adesso, mi dispiace, non posso venire, si chiami sto genere, no? Me l'ha fatto assai. Avanti Claudio. Mi sembra stato quello che in pratica ha detto stasera su Facebook, ti potrà dire 20 sacchetti da 15 kg a casa. Io la riduco, ma è carità, io sono, ma ho comunque portato in casa. zia, ma la gente è strana, mi lo sai. Vabbè, comunque quando si è spostato per la campagna. Si manterrebbe, ma ripeto, dopo giovedì era che me la continuo e sud li accendevo io, faccio i lavori che faccio, mi prendo anche caro, c'è per meglio di una ditta, meno della ditta quando sei stato di dubbio, però persone che conosci, capito, perché la suocera di mio cugino ci va in cauto, vabbè, fai spendere poco. Ma chi ti si è permesso a dire non è troppo pensiero, ho mandato una foto a quel momento, ho detto mi vedi più a me. Però io non ci vado più. Avanti tu. Gente, guarda, è gente che non li soffro proprio, io divento una iena, proprio mi fate gli antipatici, quando una persona una volta ha già fatto una cosa, ma te li vuoi 5 euro, però lì gliel'ho detto, gli ho detto, ma sei macchio, l'ha giù di tutto, dammela almeno 20, gli ho detto. Non ti chiamo più, non ti chiamo, ma non me lo frega un cazzo se non mi chiami più, ma proprio così me. Io sono venuto a lavorare, tu mi dai soldi. Ma, cioè, ma non ti vergogni, gli ho detto, io ogni volta che mi muovo da casa c'è la benzina, e c'è quello, c'è quell'altro, mi muore di cuore in mano. Fa una cosa, metti la croce, chiudi anche il mio telefono, mi l'ha detto, ma subito un burro. Mi sono attaccato con i cani, mi sono attaccato. Ma è considerare, a parte la benzina, le gomme, l'olio, tutto questa roba qua, ma sta scherzando, ma poi è aumentato. Tu pensi che il gasolio ha superato la benzina, ha fatto un conto, se me lo mettete, e mangiare non aumenta, tutto aumenta. Io ci può dire non ho preso niente, perché da casa mia, vicino solo a Camillo, a scendere a prendere niente, poi salire a Carbonazzi, insomma, ne ha già fatto chilometri. No, basta, no. Io poi le persone me le segno, capito? Tu pensa che tempo fa era appena uscito l'Iro, sono stato quasi un annetto, e praticamente in questa del camino che andava a fare tutto l'impianto lì, trovate la luce, era già mezzato ed era una CB, non faccio nome che non me l'ha contenuta. Ho detto guarda, qua è un casino, devo rompere, mettere il tubo nuovo, però per l'altro, perché c'è anche luce, cose antiche. E quando mi prendi, se metti solo il differenziato, 4, 1000 euro, è troppo, non dai, ci farò con mio marito, poi ne parliamo. Insomma, dopo una ghetta si è informata, perché me l'ha detto, che era stato 2005, 2000, 2005. Quando entro lì, dice, abbiamo deciso che me l'ho fatto uno, mi dispiace, non te lo posso più fare, sono impegnato. Ma non l'ho fatto, vabbè, rompimi le palle, faccio un prezzo buono, poi, stregando cucina il bagno, non è un pezzo, sgabuzzino, poi, lascio aperto. Hai fatto bene, bisogna rispondergli così a questa gente. Per carità, tutti vogliono, ma poi, cioè, alla fin fine, cioè, ma non esiste, vai, fatti rubare, vai. Cioè, è gente sfiducia, è gente cattiva, cioè, bisogna trattarli come sono, bisogna trattarli. Come sono, hai fatto bene a chi si soccorsi, magari che cosa poi te la tolgono me. E ci sono anche quei bastardi che ti fanno fare il lavoro, cioè tipo chi si grandi altolocati, con quelli bisogna stare attenti, e poi ti dicono ma la fattura non me la fa le cose, e poi cazzo ci rimane male, cazzo succede una guerra, cioè succede che sta a zuffie, quindi sono ancora più pericolosi, con certi personaggi bisogna stare attenti. Ma io uso la sempre una tattica, ma tu. Allora se lavoro 1000 euro subito dico chiedo 250 euro d'acconto per prendere materiale eccetera. Con 250 già ci sono dentro, perché risparmio molto, è molto materiale, ce l'ho anch'io, quindi. Poi mentre lavoro chiedo già 500 e siamo già a 750. Quindi automaticamente quando sto per finire mancano 2 giorni e chiedo gli altri 250. Se vedo che un tipo l'occhio dico faccio una cosa, adesso il collegamento ce lo fa lì, arrivederci, e io sono già dentro con l'importo, capito? Ehi, lascia aperto, a me è proprio come tutti, non prego nessuno io, se non mi dà conto, adesso lo faccio fare da un altro, io ce l'ho fatto così. Per carità, guarda, gente brutta c'è in giro, gente... bisogna sempre tenersi sul cerchio, altri bisogna sempre guardarli con un punto di vista. Se te ne accorgi, se vedi che sono persone brave, persone buone, te lo tieni, se no sempre il solito cerchio per i lavori, sempre le solite persone, perché oggigiorno non ti puoi fidare di nessuno, sono tutti garogni, insomma. E basta, ce le vedi in faccia le persone quando ti chiamano. Io ho il mio cerchio ormai, le persone che in cui quando lavoravo tutte le scuole superiori, mi delle professoresse, Frisile, e non sono mai niente che mi chiamano, mi conoscono, sono per specializzato, quindi. E come l'idrico idrico, e poi ho aggiunto anche tapparelle, a un altro ragiero, avevo chiesto 700 euro per riparare delle tapparelle. E ho detto però guarda, sto già facendo un negozio, non posso mollare. E poi dopo il periodo delle feste, no, io finisco il 23, non mi chiamo il 24 perché non ce la posso fare, quindi. E stavo poi cavolando, ascolta, cosa avevo chiesto? 2000 euro, così almeno mi dicevano, da questo 700 sono 8 tapparelle, ma non con la ciglia saliscente, con il microlipite che è una cosa tutta diversa. E quindi poi c'era anche la tapparella elettrica che non funzionava, era posato un motorino. Il lavoro ce n'era, però, ripeto, io se sto facendo un lavoro devo finire quel lavoro pagato la parola. Infatti questo mi dava sempre a contire, ha bisogno di soldi, ha bisogno di soldi, e si cavano, c'è gente che non gli soldi, me l'ha già dato. Poi dopo domani mi messe per altre donne. E dirò, sono contento così, basta, ho clienti buoni, non per clienti che sono pignacuroni, e poi ti dici che piglia poca pensione, e poi da lì si compra già roba da 1000-2000 euro, televisore che fa calvaccia, ma non tentate, va, che ne dirà. Lascia perdere, comunque io ero però svegliato stasera, ragazzi, alle 6:30 tra baracchino mi ha detto Gianni, e invece mi messo a Maduita, io ho fatto il travaggio, ho preso il tempo, e per quello perdere tempo è pure basta, perché adesso fa mentire, ma fa pure pure a me, e vabbè, però me l'ha segnata, come ha finito. Ma appunto, fuori dalle balle. Ti rimbalzo, fa fuori, Gigi. Dimmi tutto, non c'è problema. Sono qua. E tu gli lecca lecca, ripetitela. Eia, a voglia, hai visto? Lecco, lecco, lecco, lecco, lecco, lecco, lecco. Tanto, toccati la fianca. Accudite. Che cotto, dice, ti vedo, no? Non credo proprio. Intanto già trinca un po' quanto adesso, la massa è in varia. Non credo proprio, come pensi tu, la verità. Però, ragiono bene, grazie a Dio. Quindi a un certo punto, si è fatto questa modifica così, quella sua originale era peggio, quando me l'hanno consegnato questo apparecchio qua. Ma io all'azienda sono assimio, lo bevo, capito? E quando vado a fare prendo un caffè, per dirti a te. Tu invece ti hai preso la birretta, no, 0,50, un tazzo di birra, te qua. Poi si prima ha pigliato una mano di birra. Oia, mica fa male a tornare la birra, guarda quanto ne bevi tu, non è che fa male uno subito una tazza, non è pura, ma tu ne bevi 3-4 pugli. Tu se lo fai, a te ti fa respirare la birra, se ti alzi lì, ma tu dici, ma mi vuoi avvelenare. Ma sono una persona che ti dico le cose giuste, 0,60 era. E penso un po', e beh, a tu. Anche io qualcosa mi capita da prendere quella analcolica, è buona se sapore, però non è alcolica. A me l'alcolica non mi piace. Penso un po' a 60 euro, una pulla. E come ti dice la vita, puzzi non si vecchia. Dopo Antonemi che ti fa male, no? Raga, io vi saluto, ragazzi, vado a fare il mio TG e poi a cena. Ciao Antonello, Antonio, Gianni, Tonino, Marco, tutti quelli che sono all'ascolto, a domani, ciao. Ciao Fra, ciao, vi sentiamo. Tutto, ottimo, TG a chi è tra poco, chiudo lo stesso. E buona cena, buon tutto, ci sentiamo domani. Ciao, stai bene, avanti a tu. Ciao, ciao a tutti. No, a me mi pigliano in giro perché io ho paura, giustamente. Cioè, paura che me ne prendano la patente, perché se me ne prendono la patente non posso travagliare. Quindi io, birra analcolica, quando vado nel locale, mi pigliano in giro. Prendimi in giro, vado solo per bere qualcosa, perché se no a me non me ne frega niente. Sono finiti quei tempi dove mi fatti anche una mina. No, non ho finito. Poi da quando c'è il bambino e cosa. Non mi devo più arrabbiare, non mi devo. No, è finita. Perché poi, cioè, quando uno esagera con l'alcol, fa di burro vino maro, mi capito. Magari nel tempo che magari invece con qualcuno succede una tragedia, perché è un problema. Purtroppo i neuroni mi fanno questo effetto, mi fa, magari se non mi dice niente nessuno sto buono, però magari cosa succede? Magari succede se io mi metto attorno a bere, succede qualche viticcio, cioè io non me lo posso più permettere anche, io divento giro di testa, mi capito? Mi fa questo effetto a me, mi fa. E quindi sto evitando uno per quello. E poi anche perché ho paura che non prenda la patente, capito? Cioè succede che un macco ti va sopra, che te la prendi tu le colpe. Ma ce la faccio, no. Allora, primo è perché devi fare grande tuo figlio, la cosa essenziale. Secondo è per la patente, giustamente. Terzo, non ne vale la pena perché ti fai male tu stesso. Quindi, io secondo te perché non bevo più? Sono ormai 40 anni che non bevo più, anche di più forse. Anche quando io vino male, e quindi, quando sei ubriaco o sei brillo forte, una parola capisce al contrario, e quindi cazzo subito del casino. No. Non c'è bisogno che devo bere per apriarmi chi da che tanto. Io a quei tempi andavo a Piazza Italia e mi afferravo, sempre così, ero, la capisci. Basta adesso, sei diventato più grande, quindi con i sposi, figli, chi da che tanto, insomma, avevo già fare il giro e basta. Ripeto, a me se mi rompono le palle, non è che ho dovuto pensarmelo. Però cerco di evitare perché, ripeto, non mi interessa assai, mi interessa fare la mia vita tranquilla, la pensione, e poi invece con quella moneta non lo faccio, anzi più di uno, non me ne fate nulla, perché intanto qua va tutto aumentato. E molte persone ancora non ho capito che la vita è cara, e se uno ti chiede una cazzata, non dire che è troppo. A chi te l'ha pigliato più le palle, e va perso, a chi va perso. Quando già baracca entri, ripara un pedina, vedrai che deve usare chiamata, anche la chiamata le farà pagare. E così si impara, non me ne fotte nulla. Sì, mi arrabbiavo troppo pure io. Cioè, no, dico, perché poi la gente sa com'è, un bisticcio, una cosa, poi sono con le, soprattutto questo periodo, sono un po' troppo irrequieto, sono perché ho le balle girate per tante cose, non è facile vivere come vivo io neanche, con un bambino a carico e cose, cioè, è meglio che l'alcol lo lasci stare, ma lo lascio stare perché... Cioè, se uno viene mi rompe il coglione tipo l'altro giorno, diventa molto molto violento, ripeto. Cioè, che sono giunti in occhi di quattro mucconosci a rompermi le cazzole. Poi alla fine gli ho tirato di tutto, vabbè. Stava finendo male la cosa, ma non ero bevuto, ero sano, ma niente di quando sono gubito, non ti chiedo in che condizioni sono, quindi è meglio che questa pagina qua la lasci stare. Qualche volta una di quelle birrette piccoline a casa, ma non esco da casa però, qualche volta, ma una volta al mese, burro, chissà quando. Prima invece bevevo, ed era un problema. Poi dalla volta che è successo un problema, un circolo, ma un problema serio, che stavo sfondando, stavo spaccando quanto c'era. Poi alla fine mi sono messo a piombo, ho detto bubato, non bevo più. Per colpa di un imbecille, di uno stronzo, perché perché se mi lasciavano con le balle in faccia a me e mia moglie non succedeva quello. Boh, finito, Antonio ha finito di bere perché glielo gliel'avevo promesso. Ho fatto una promessa che non bevevo più. Ma lì vedi che stavo andando con l'arnese a fargli la pelle a me. A 10 livelli ero me. Poi te ero reggio che non vale la pena, capito? Allora, capisci? Andate bene, Reda. Va bene, dai, che vuoi? Ci rimetti sempre tu. Hai la tasca e ti fai il giacomaro o qualcosa che non vale la pena. Allora, va. Andate bene. Ok, dai, a tu. Io mi guardo un po', la giornata tra poco inizia. E poi mi preparo la cena. E poi domani a trabaccare come al solito. Entra più presto, dai. Già metto le 6:30 oggi, non ce l'ho fatta perché mi hanno chiamato sul lavoro. Che la mia non andavo, comunque, pazienza. D'accordo, ci sentiamo tu. Ciao, state bene, faccio un bambino. Ciao, compulsi, sei sempre all'ascolto. E eventuali ascoltati. Un saluto, ciao ciao. Ciao ciao, ci sentiamo, Tomi. Alle brucie, non sta bene, adesso gli faccio un po' di riso bollito, se lo mangia. Non fa bene, no, Gabriele. Allora, adesso vediamo un po', poverino. Ok. Ciao ciao, avanti, Antonè. Ciao ciao a tu.